avete aiutato a pensare nella punta più alta, però nel palazzo più alto a mettere la mano va sul bolso. Dove l'antenna, diciamo, spazio libero, va, dove c'è poco spazio chiuso, arriva dove è. Bene, bene, e qua c'è strategici, e quindi scappa, e Bonaria è la migliore. Bonaria è la migliore, lì non c'è nessun ostacolo, c'è copertura aperta da circolare dappertutto, ok. Bene, bene, vuol dire. Traducete che non ascoltate, Questo è il punto più alto, è lì a Bonaria, uso l'ho capito, da lì si può trasmettere bene, dalla zona di Bonaria, capito. Ma una chiesa c'è? Come 30 da lì, ma ancora sopra fuori da piazzale più, lì a Chiarettiera, 9.30 a Cassi, positivo. Io ho sentito, per esempio, a Pierpaolo mio figlio, che ero qua, mi ha chiamato in questi giorni, l'altro sabato ancora mi pare che, o questo sabato, non mi ricordo, ed era sotto Ausilo il camion, stava scendendo questo qua, e poi arrivava bene, ma detto che era sotto Ausilo, però non ho capito sotto Ausilo da che parte. Non lo so. No, negativo, io non ho visto. E va bene, magari era in qualche punto, diciamo, aperto. Oh, volevo chiedere, ma nella zona di Bonaria cosa c'è, una chiesa? Non lo so. No, a me mi è capitato altre volte in camion di Ausilo e cavolo se... Ausilo va bene, se quello che ti trovi il camion spari e come pure. Ma il movimento si trova da zone negative e zone aperte, capito? Quindi non c'è, diciamo, distinzione di niente lì nel movimento, capito? Invece base fissa, diciamo, dove apre, dove non apre, rimane chiuso, così. Bene, bene, ma in macchina non ne ha impianto in macchina. Ma chi? Ah, mio figlio, no, in macchina no, assolutamente, solo in camion. Infatti. Roger è scappa, infatti, una BMW, sai, 2000 mi pare che sia la macchina. La BMW 2000 gasolio, sì, la SG, come cavolo si chiama, quella tipo blu notte, blu, cambia colore, secondo come gira il sole diventa blu, quel viola, blu, se ne capisci, quello lì c'è, quella scura comunque. Ha fatto come il corvo, perché il corvo è andato e non è più ritornato. Va bene, Capri, tu non si può dire, non lo so, va bene, ripidi doppio rumba. Forse adesso fra poco entra un'altra persona che glielo ho detto su internet, se vuole entrare siamo qua. Maragricola. Si riprende il Michelino che è tutto suo. Cosa? Riprendete il Michelino che è tutto tuo. Michelino! Il microfono. Ho capito. Beh, cosa ci dici? Vediamo un po' se entra con la persona. Ecco. Avanti. No, ascolta, ho sentito il suo la Gianni a Barra Agricola. Chi c'è altro? Buonasera a tutti comunque. L'amico Uranio di Usilo e poi quelli che nominati. Vai avanti. Ma lo sapete, come vivo sempre fuori dalla doccia. adesso chi è che si è entrato? Io, più forte, io. Ciao Luca. Forte. Io, sentite? Ciao Luca. Roberto, io prima so che poi era al telefono due ore, tre ore, blu. E c'è un blu e basso, adesso ho finito col telefono e subito andato qua. Lo vecchio come ce l'hai, rosso? Rosso. La fine del telefono attaccato. Sono un telefono attaccato già, no, fa male. Distante. Sai, radiazioni. Sì, non puoi esserci anche il parlascolto. Se non ti interessa di farlo ascoltare, basta metterlo da una parte e te l'ascolti col parlascolto. Manda bene. Quindi era una telefonata molto importante. Buonasera. Buonasera a tutti. Stavo parlando con l'uomo di Camber. Claudio, stai essendo senza antenna probabilmente. Conferma. Radio Vulcano, come va? Come, come siamo, Lucari? qua siamo e niente, dai. E poi ma ricordate di cosa, lo fate chiamare a Gianni Gippone. Mi pare che prova a chiamarlo, se mi risponde, se riesce a prendere il telefono, prova a fargli una chiamata a vedere come è andata l'operazione, che non ho avuto tempo a chiedere. L'ho sentito prima, ma gli ho detto che lasciamo scorrere un paio di giorni là, dopo l'operazione, per non disturbarlo, perché già rimane immobile, che non si può muovere, che lo devono imboccare anche. Figurati, adesso che abbiamo fatto l'operazione sarà ancora più immobile di prima. Adesso provo a fargli una pasta e poi faccio sapere, là. Provo a fargli una pasta se mi risponde, faccio un attimo di piano e poi faccio sapere se mi risponde e mi dice come è andato l'intervento. Ma quando l'hanno operato? E mi sa mercoledì mattina ho fatto. Cosa ha fatto la torre? Nessuno lo sa. Sono squadratisti, Robè. Cosa? Che squadratisti tu? Alto, sono il massimo microfono. Che squadratisti? Diciamo, tifoso in particolare di nessuno, simpatizzo un pochettino per il Milan rispetto alle altre, ma a me piace adesso per dire tutti qua a Roma, perché sono contento che quando l'ha giusta a tutti quanti. Perché l'anno scorso mi era antipatica che era la Canarina Lori, che non mi piaceva, quest'anno ho visto che stanno lottando e stanno giocando bene, mi piace anche la Roma. Sicuramente non sono juventino, visto il poco ma sicuro. E poi da piccolino ti favo Torino, poi ho cambiato squadra, nel senso non me ne ha fatto più nulla di nessuno. Il calcio le guardo tutte le partite, per dire, certi momenti la Lazio mi piaceva, per certi versi anche altre squadre, per dire la Sampdoria, ma nessuna in particolare, un po' di più il Milan rispetto alle altre. Positivo. E ora con un sito si chiama P4P, una cosa del genere, per guardare le partite gratis. Sono un casino perché mi dice di scaricarmi a aggiornare Media Player. Ma abbiamo Media Player aggiornato. Lo rischio sarà che siamo anche il virus. Ma c'ho amici che se lo guardano, quelli in streaming, però sono in corso, in canale cinese o cosa del genere, e te ne danno con l'audio cinese, ma non ti dà più nulla. Comunque credo che abbia vinto, perché qua c'è scritto 83 a 69, mancavano pochi minuti prima a finire, credo che abbia vinto. E Vittoria c'è scritto, capito Robè, scusa? La Dinamo ha vinto 83 a 69, col Cantù che ha ganato la squadra che l'anno scorso l'ha eliminata dalla finale di Coppa Italia, cioè Coppa Italia, per lo scudetto, se avesse vinto col Cantù probabilmente poteva anche rischiare di vincere lo scudetto. Sfegattata, anche se quest'anno ci avete un allenatore che gli ha dato un po' una scossa, beh, così è giusto. Io sono in Terizza, non ho mai il fegato, cioè non sono del classico Juventino che quando perde oppure vince, che poi la partita non è meritata per loro, anche se vince lo stesso. Sono Juventino e la partita, vedi che però abbiamo giocato, abbiamo fatto girare qua e là, tra se l'ha perso, non c'è minimo mandato su Facebook di cazzate della Juve, un Juventino che Juventino nulla, manca pagarlo. E i Juventini ce ne sono quando vinse, è così, io ho tanti amici, parenti, Juventini, Salvatore voglio dirgli domani, come ha fatto lo Juventino, ma lui qua, là, sì, ci mancava quello, colpa di Conte, che non ha fatto giocare a Villa, Guagliare era infortunato, prima quando veniva a capo Guagliare la vedeva a Pizzi, ci vuole Llorente, io non so mai cosa ha giocato, perché era in informazione, ci ha toccato qualche pallone, perché non ne hanno parlato per niente al servizio. Ho visto il servizio, claro, non ho avuto molto quel modo di vederla, dice un primo tempo eccezionale della Juve, poi si è fermata, è iniziata a giocare la cosa, la Juve poteva vincere anche 4-0 all'inizio, poi è iniziato a uscire la Fiorentina, piano piano, su un gol se l'ha fatto con Buffon, gli ha tagliato le gambe, quel gol, e poi con la testa non ci sono stati più, una volta che hanno preso il pareggio, il secondo gol è scomparsa la Juventus. Tutto il secondo tempo ha fatto 4 palle gol, se gliela parate il gioco del calcio è così, è meglio che sempre vincere, poi ci hanno perso, ma è giusto che la Fiorentina abbia vinto perché nel secondo tempo ha caricato di più e ha giocato meglio, ma i gol che hanno fatto sono solo esclusivamente perché la Juve si è addormentata, perché il gol che ha preso Buffon è una cagata. Il 3-2 non c'è stato nessun contropiede, praticamente difesa non ce n'era, ma io non parlo da juventino, parlo da sportivo. La preoccupazione è che la Juventus deve giocare con Real Madrid, capito? Il problema è quello, che è l'unica squadra che ci sta, che è in Europa, no? Visto che tutti sono bravi a fare i grossi. In una settimana, in 23 giorni ha giocato 7 volte, quindi le cose bisogna saperle anche dire, specificare, no? A parte quello, ma a me non è tutta nuda, a me è nuda in busciacca. Però se le cose sono 1+1 devono fare 2, non devono fare 3. Basta giocare a pallone, non è perché sei sul 2-0 a Firenze che rilassi. Perché non c'è stato niente che ha fatto la Fiorentina, ha fatto 2 gol, una la papera di Buffon, il 4-2 proprio tutto a farfalle. La seconda preoccupazione è che la difesa della Juventus, attenzione, è la difesa della nazionale italiana. Quindi se giocano così in difesa è meglio che la nazionale se ne stia a casa. Oh Claudio, dimmi, dici. Sto a Gianni Gippone in linea, dai, ce l'ho qua in linea al telefono e vi saluto a tutti, capito? No, l'intervento non l'hanno fatto perché c'aveva un po' di febbre, c'aveva la febbre, non l'hanno fatto ancora, forse adesso vedono un po' in settimana cosa fare, capito? Saluta Gianni che ti sente. Gianni, ti auguriamo ogni bene, dai. Tanti auguri, buona guarigione, che sia al più presto, e che possa tornare tra noi, dai. Avanti, oh, Claudio. Che dire? Cosa devo dire già? Un abbraccio grande, rimettiti presto. In bocca al lupo, non ci voleva questa battuta, non ce l'avevamo vista da poco, dal gommista. Quindi mi è dispiaciuto tantissimo, riprenditi presto e basta, non ti dico altro. Ok, mi ha fatto piacere che ti ho sentito almeno, poi mi faccio passare magari il numero, ogni tanto ti chiamo. Avanti a chi tocca. Va bene, dai, sono al telefono. Sì, ehi a Gigi, grazie, salutano tantissimo. È un vecchio amico, d'infanzia. Hai capito, Robert, come funziona? Però vabbè, sto ascoltando, siete fuori in banda e non posso stare qua io. Comunque, è così, bisogna giocare sino all'ultimo minuto, non fare coglionate come ha fatto la Juventus. E soprattutto hai detto una cosa bene, bella e giusta, no? Che Buffon deve iniziare a stare un po' in panchina, perché sta prendendo troppi gol e per me non è più la nazionale italiana. Questo lo dico da juventino e da sportivo. No, c'è da dire che ci abbiamo all'altezza sua, cioè esperienza, Buffon in fase calante, per quello ci vuole un riposo. L'unico che può sostituirlo degnamente è Coso e Macchietti, ma anche lui non è un granché, oggi l'ha preso anche un gol lui, un bruttino, purtroppo i portieri quando sbagliano è sempre gol, 90% dei casi, ma che non venga salvato come De Santis ieri col Coso, che squadra era? Napoli-Roma, che ha salvato il Coso, la parata di quella salvata dei russi. Normalmente quando il portiere sbaglia entra in rete e gol. Secondo portiere io, per me Buffon se lo mette nel culo, se non avrei dubbi. Vabbè, continuate, dai, che a voi vi piace, non vi interessa molto. Gianni, riprendi e... No, non sono entrato perché Luca ha detto che non c'è il Juventino, io sono Juventino, sono qua, vi sto ascoltando. Quindi non è che mi c'è un web, attenzione. Quando la Juve merita di perdere, giustamente c'è la pura verità. Si sono rilassati troppo, pensavano la Fiorentina fosse qualche squadra di Serie B, è candidata anche lei per la Champions, è candidata per lo scudetto, quindi è già per loro che si sono rilassati. Ben gli stia, avanti Gianni, riprende per girare, rimane il QRX, ciao a tutti. Dai, riprende, sono in QRX. faccio anch'io, dai, se sto parlando con un'amica al PC, dai, vi saluto tutti. Per il momento faccio quelli che c'è anch'io, salutate Claudio, buona serata. Ciao. Cordiali, qua Orario, ciao. Vabbè, stavo dicendo su Facebook, non qua, non so che ci sei qua, se mi ascolto, io dico su Facebook, quando mi c'è la Juve tutti commentano qua e là, ma quando commentano come nessuno mi commenta. Addirittura sto scrivendo con una mia amica, la moglie di un mio amico, c'ho una mia amica, una lettera mia, erano per la partita. Prima che loro entrassero allo stadio che perdeva e uno ha scritto non mi permetterei mai faccio una cosa del genere. Franci son Giacomo con un nick Laura Russo ha scritto dile a Luca di andare a cagare, porta Juve. Però io prima ho scritto oggi perde la Juventus, io ho scritto convinto mi fa lì, a parte ha perso. Poi ho detto, sai che ti voglio bene, no? E lui mi fa torra. Aspetta, Giacomo offro, non so chi sia, boh. Luca, vai a casa, mi ha scritto. E io gli ho scritto, mica mi sono sbagliato. E ma non mi sono sbagliato, ha perso. Sì, ma non era pronosticato, non ce n'era pronostico. La Fiorentina è la prima volta che vince con la Juve, sia in casa che fuori casa. Hai capito? Non ha mai vinto. E quindi è una cosa bella, perché hanno meritato, ti ripeto, hanno meritato. Perché si sono rilassati troppo, perché con una squadra così, con quei giocatori lì, candidata, ti ripeto, allo scudetto, candidata alla Champions, perché le candidate sono le prime quattro, non si discute quest'anno, e con la speranza che la Roma c'era, che c'era un po' il passo, perché si è vista un po' calante col Napoli rispetto alle altre partite che ha fatto, però che conta il punteggio e quindi va bene lo stesso. Ma le squadre sono tutte lì, capito? Chi sta prendendo colpi è la Lazio, ma le squadre quelle che sono candidate si sa quali sono, no? Capito? Si pensava che ci fosse in mezzo anche il Milan e l'Inter, ma a misura tecnica mi sa che neanche quest'anno ci sono né una né l'altra. Quindi, però io ti ripeto, non era assolutamente pronosticato in nessun campo italiano era pronosticato che la Fiorentina potesse vincere 4-2 con la Juve. C'è stata questa svista, c'è stata questa grande monta, questo coraggio di voler fare, ce l'hanno fatta, è meglio così, ti ripeto, va bene, Roma così c'è dopo Garibaldi, Lomachini che va in campo Conte, capito? Cosa cazzo è buono di Orente, ma che cazzo è questo di Orente? Ma chi l'ha mai, ma è bomba, chi è questo di Orente? Ma io ho detto dall'inizio, non ho troppo esaltato questo giocatore, era meglio Matti, a meno Matti faceva movimento, questo è un giocatore, un palo ben cadente, era potente fisicamente, però a quando muoversi lui, il calcio italiano è molto diverso dal calcio spagnolo, dove ci trovi due o tre squadre buone, tipo Real Madrid, Barcellona, Atletico e forse il Valencia, tutte le altre sono la Serie C italiana e ne manco. Nel campionato italiano l'hai fatto una squadra tipo chi era, il Verona o qualcosa era, no, l'Atalanta ha battuto la Lazio, per dire, una squadra ultima in classifica può vincere con quella prima in classifica, talmente equilibrato il campionato. Forse non era abituato al clima italiano, non lo so, però sinceramente non lo vedo così forte per come l'hanno pompato. Tevez sì, è un giocatore di qualità forte in tutti i sensi, lotta, ma Fiorente, sarà un bravo ragazzo, ma a livello di giocatori ne abbiamo molto più forti di lui. Non so cosa dirti, io ti ripeto, da quando sono nato sono Juventino. Sono Juventino in carriera, l'ho visto anche il Cagliari ieri, gran partita, lottato tantissimo perché l'ha voluto il risultato e l'ha ottenuto, con tutto che poteva vincere 3-1 perché ha sbagliato un rigore. Comunque, il pallone è così, il campionato è ancora molto lungo, le squadre sono tutte lì, c'è la Roma. Adesso insomma, se fanno scappare la Roma che va oltre i 4 punti dalla seconda, sono cazzi da cagare. Comunque, facciano quello che vogliono, io lo accetto, a me non entra nulla, mi sciacca, però intanto quando una squadra del genere, con giocatori del genere, che ha fatto due gol al primo tempo, si rilassa, va di giocare una squadra. sia indietro alla Roma, alla Juventus, alla Fiorentina, all'Inter e al Milan. Il Napoli è una grandissima squadra, perciò ancora è tutto da vedere. Però queste sconfitte ci vogliono per far sì che lo spogliatoio e l'allenatore stesso capisca gli errori che ha fatto, perché non è poi voler agli orenti, che ha stagione che la partita è un botto, un cadavere, quello che ha fatto, non ha fatto nulla, perché non c'erano altri, non c'erano altri in panchina, lo credo dove entrare. Dambe c'era la buccia, dice il Cogliarella, infortunati c'è da dire, per cui si sono avuto tempo. Vabbè, è importante. Tutto è importante. Ha detto brutto, è muto, pure la mai 4 c'è. Cioè. Una 4, quindi ti faceva 0. 0 sotto 0. Vabbè. Dai, vado a vedere un po' di TV. Cioè, mi pare c'è anche Francesco da Ogero, non so, io vi stavo ascoltando, però siete fuori in banda, io non mi posso trattenere molto. Ci sentiamo, avanti Urania, se ci sei ancora, siamo roba del petto e fai girare, io passo il corrigo. Ciao a tutti. Curix allora è con buon proseguimento di domenica, K. E beh, Luigino non è rientrato, oh Luigino! Mi sa che forse dovremmo andare tutti, ritornare nel canale solito, canale 10, se vogliamo andare tutti lì. Mi ascolti l'amico qua di Osilo, se non sbaglio? Sì, ora io sono K. Adesso siamo sentiti altre volte, mi ricevi bene dalle tue parti, qua sei 9 più 10 il tuo segnale. Sono bene, qua sto arrivando quasi 9.20, 9.10 sei, dai, 9.15. E 9.10 c'hai i picchi, con i picchi di modulazione arrivi a 9.15 anche tu. Vabbè, se volevo andare su 10 anche a me, non è che siamo molto d'accordo stare qua, se no, pazienza, anche io rimango in ascolto, tanto sono qua, ho computer, sto guardando delle cose. Se vogliamo spostarci, magari ci segue qualcuno, cosa dici? Vabbè, per me è indifferente. Meglio perché ho come uno stazionato, cioè, io ne ho uno e due, dai, ma sono altre. Passiamo a 10, così magari ci sia qualche Claudio, dai. Sì, Uranio. Ascolti dalle tue parti, Uranio. È matto di segnale, non voglio andare a tirarlo fuori, lo sento... Vediamo un po', prima era proprio 45, era un po' bassino. Uranio, ci sei? Sì, Urano o Uranio? Io non ho compreso ancora. Sì, Urano. Attenzione, usilo se colpi la città di Sassari, avanti Urano o Uranio che sì. Aspetta, c'è Claudio, se ci ha ascoltato. Claudio, ci sei? Attention Claudio Sparviero, se copi il canale 10. Io compriamo di Gianni, no? No, ieri era. Oggi, si metti, sì. Ti devo mandare adesso gli auguri su cosa, su Facebook. C'era scritto il compleanno di Gianni, infatti glielo mandate, la risposta. Gianni chi, doppio Roma. Sì, infatti mi ha detto, ascoltati su quel canale là che ci siamo tutti quanti noi. Infatti immediatamente, stavo guardando, gli ho detto ok, vengo di lì. Ok, Marco, tu sei? Cappa, avevo fatto quelle T che era in barra mobile, no? Adesso sono salito, ho acceso. Quando lo vedo gli do un bacione in bocca con la lingua, Gianni. Buon per voi, cosa avete di dire? Allora sei in due. Chi mi ha sovramodulato? Chi si è permesso? Credo Luca che arriva forte. No, io no. Ah boh, non lo so chi sia allora. Va bene, va bene. Ma l'altro è freddo, aspetto che scaldi. Chi è avanti? Salve a Capri, Gianni Capri 2 dalla città di Muro, ok, in compagnia mia, di Luca e di Marco, poi c'era Uranio o Urano, non ho capito come si chiami, di Iosio, l'avete ascoltato qua, poi c'era Claudio, speriamo che ci segua qua, su canale 10. Avanti di nuovo Capri, farai girare per gli altri. E sono qua. Come già abbiamo? Certo, lui. Comandiamo. vicino, ho mangiato burro truffo, infatti mi ho mangiato un pezzettino di pane adesso per togliermi la pesantezza, e boh, un pezzettino di pane che ho mangiato truffo, no, non io voglio mangiare, sino a domani non si mangia oggi. C'era Capri, avanti Capri. Non riuscì così forte, anche se è pure troppo forte da parte mia, si è leggermente saturo come segnale, cioè come modulazione, comunque ti ascolto bene. Cappa, ti ascolto, sto usando un apparato non proprio preciso, praticamente arrivi Santiago 2, modulato 3 e con lo Smith buono dovresti arrivare 7, 7 e mezzo modulati, dall'attacco. Ciao Gianni Capidue. Ciao. Va bene Gianni. Hai risumato con l'apparecchio. Collato sicuramente, dai un colpettino non tanto forte col dito. Thank you. guarda, fa tempo che io mi sono assentato. Adesso devi rilanciare il macchio, vediamo un po' se c'è. Lì, sì. Lì dove sei andato via, dai. A chi tocca, Ho preso il conto, Luca. Un bacione, Gianni. Cosa? Sì. Grazie, grazie. Boh, vabbè, io stasera magari sarei voluto uscire, ma niente da fare, dai, vabbè, dai, se la mille luci. Ma perché gli altri non erano disponibili? Quali altri? Diciamo che in casa ho festeggiato, dai, basta, tutto lì. Vabbè, qua se si vuole organizzare bisogna sempre anticipare perché sono dei cani morti. Va bene, io ho compreso comunque, che sono sempre svogliato. Va bene, va bene. Ti tocca offrire da bere? Soprattutto, hai perso, vai. La giornata è passata ormai. Gianni, via. A poco fa una Turbo 2001 in Russia? Sulle 60, 55-60. Ma ha visto c'è il sito, vendo antenna veicolare LEM Turbo 2001 sigillata a 50 euro, selezione inclusa, la vendo per un acquisto di dato, essendo veicolare a me serviva antenna base, però è rossa questa Turbo 2001, come mai già? Perché ci sono diversi colori, quella che è uscita per prima era blu, come quella che ho io, poi ne sono uscite gialle, rosse, che poi non rendono più lo stesso tanto, dici lo sa, praticamente quelle che rendevano sono quella, come quella che ho io, quelle nuove che sono uscite non rendono più il tanto. Avevo visto una di antenna americana che c'ha la base dove c'è la carica con un cobra, la forma di un cobra, ma grossa, enorme, su un camion l'avevo vista qua su internet. Ce ne sono, a voi. Vabbè, di antenne, se devo andare a antenne qua, viene da tutte le basi. Ok, un attimino volevo chiedere a Capri, come mi stai ascoltando tu già? Hai messo già gli anni Capri 2? Segnale 9 più 10 con i picchi positivi, la radio questa probabilmente è meglio di quella di prima. Ok, anche questo va bene, niente da dire come potenza, come qualità di radio. Tra le due non saprei quale scegliere, la verità, l'uno vale l'altro, mi dipende poi da orecchio a orecchio, ognuno ha il suo metodo di valutazione e la sua... È un rischio, dai, poche parole. Il centro 94, è un orologio corporato, meccanico, perché lui è stato il microfono, non sparisce, non riceve, riceve lo stesso, però non sparisce, diciamo, la ricezione, dai. Una cosa bella, essere. Io mi sono visto 200 fregate così che le stavo mettendo a piccoli a poco, le stavo mettendo da parte, quando l'ho avuto per comprarmi l'apparecchio me l'ho fottito. Allora, fregatura. Cioè, quindi con quello che stavo dicendo io gli aiuto, non conviene, no? Cioè, se uno riconosce da qui che passa, ma così ho un po' lunga la situazione. Vabbè, è così, io la penso dopo gli altri. Va bene, poi trovare anche roba buona, sì, perché ce n'è, se un momento diciamo l'apparecchio è buono, funziona, vai e fai la fare. Però se quello lì decide di andare a fregarsi, si frega, si fotte, chi tocca tocca. Benissimo, tu avanti in fondo, dammi il segnale lì, stazione fisso, però sei fisso adesso, lo riprendi, come sta arrivando lì? Allora, Santiago 6, la radio però devo fare orecchio per ascoltarti perché ho il QRM disturbo elettrico a Santiago 3 e quindi sento questo turbo, se avessi la modulazione è un po' più forte. Comunque per gli acquisti su PayPal ti sconsigliano di usare le ricariche PayPal da PostPay. Sconsiglio di usare le ricariche postpay perché c'è qualche truffaldino che si fa pagare con quel metodo e poi sparisce. Allora è un casino anche ritrovarlo. Consigliano a tutti di fare PayPal, potete pagare o con il credito PayPal che voi caricherete oppure con una carta di prepagata, non la vostra è possibile, una prepagata, ci mettete il credito dentro, la collegate a PayPal, la registrate su PayPal e pagate con PayPal. Quindi se la persona o non arriva la merce o vi arriva un bidone eccetera eccetera, PayPal in teoria potrebbe restituirvi i soldi. Poi ci sono stati casi comunque di dei casi in cui PayPal non poteva restituire i soldi, vi spiego perché. Quando eBay si vuole, PayPal si vuole rivalere sul truffaldino, preleva dai suoi soldi, dal suo conto PayPal. Però se la persona si ritira i soldi da PayPal e quindi non ha credito su PayPal, PayPal non può prendere niente da restituirvi, capito? Ricordate che i truffaldini, i metodi li conoscono tutti, quindi attenzione. Infatti non conviene mai comprare da privati, conviene comprare. Naturalmente non è tutto, lì ci sono da tutte le parti, anche su subito qualunque giro di coso, di annunci, può avere sempre il truffaldino. Bisogna essere molto attenti, come ha detto l'amico e come avete detto voi, naturalmente valutare bene la persona, possibilmente parlarci per telefono, entrare in acqua, evitare, a meno che non sia proprio un affare, di uno dice me la rischio e ci sento, qualche cosa ho acquistato per acqua, però sono da moltissimo tempo che non acquisto per acqua. Io ho acquistato tantissime cose, non le potrei anche elencare, mi è andato bene tutto, solo una cosa stava andando maluccio, poi alla fine gli ho mandato un paio di mail, e qua il discorso che il figlio aveva venduto un affatto del padre, una persona in base alla Intec, quella grossa che ho io, e l'ha venduta di nuovo scorso del padre a questo ragazzino. Mi ha telefonato il padre, voleva restituirmi il studio, ho detto no, io volevo l'apparato, e alla fine me l'ha restituito, cioè me l'ha mandato, perché ha detto ti restituisco i studi, anche le spese, eventuali spese di postali, eccetera, no, gli ho detto tu mi devi dare quello che ho chiesto, me l'ha mandato e basta. Tutte le altre volte che ha acquistato da Erico 10 di apparati e cose del genere, l'unico dubbio quando ha acquistato, non per fare il coso, con Trampolettani, l'ICOM, l'ICR, il ricevitore 7000, lui ha avuto un po' di coso, però mi ha telefonato, lui mi ha chiamato, vieni, ti ho scritto qua, mi ha fatto, ma proprio convinto, non vogliamo saltare questo tabù che i napoletani sono tutti truffaldini, ti dico Roberto, io c'ho un amico di là a Napoli, mi ha fatto confermare se esisteva veramente questo laboratorio, mi ha detto sì, vado questa attività finanziaria, detto, c'è il negozio per cui male non te ne sta raccontando. Mi ha ospitato, mi ha detto spediscimi se c'è qualcosa di, perché ho detto c'è un apparato che c'era dei problemi, mi ha detto spediscimi, te lo riparo gratuitamente proprio per far vedere che l'ha mandato l'apparato pienamente soddisfatto. Purtroppo molta gente vede l'offerta, bisogna stare molto attenti quando si sono letto le offerte troppo allettanti, perché molte volte c'è sempre il trabocchetto. Io grazie a Dio non mi posso mai lamentare, dopo quello che ho acquistato è andato sempre a buon fine, l'ho acquistato sempre con post pay quando potevo, oppure la maggior parte delle volte chiedo sempre il contrassegno, che siamo più sicuri, quando mi arriva la merce, a meno che non ti mettano un mattone dentro, mi è andata sempre bene bene. Le fregature puoi prendere anche qua, acquistando da un amico in radio, ti vende un baracchino, tutto a puzzo, lo provi e poi è un bidone, da tutte le parti, bisogna anche in certi casi avere anche un po' di fortuna, anche non c'è un apparato nuovo in garanzia, lo restituisci eccetera eccetera. È vero Roberto, quello che stai dicendo, anche io faccio come te, o post-pay oppure il contrassegno, ma adesso sto comprando solo dalle ditte e basta, non compro più da privati perché troppe fregature, non fa. Non lo so, io sono abbastanza diffidente di natura, però addirittura quello del camper, quando ha acquistato il camper, quello gli ho dato un acconto io, gli ho mandato dei soldi, mi ha detto ma tu mi stai mandando dei soldi senza averlo detto, guarda mi voglio fidare di te, voglio fidarmi di una persona, voglio capire se c'è ancora gente, lui ha detto guarda io ti sono una delle persone eccetera eccetera, gli ho mandato i soldi, ci siamo andati l'appuntamento a Genova, sono andato e me lo sono preso, non mi ha fregato, gli ho dato la differenza di soldi che gli dovevo dare e me l'ho portato e sono soddisfatto di quello. Cosa. Poi quella era una cifra diciamo abbastanza importante, non era una cosa di centinaia di euro, era di qualche migliaio di euro e mi è andata bene, di lì diciamo un po' ci avrei preso qualche centinaio di euro perché ho dato una cauzione, una cappara, però ci siamo messi d'accordo telefonicamente, poi tra l'altro è ritornato qua in Sardegna lui, ci siamo trovati, diciamo è stata una persona in gamma, ho acquistato baracchini, ricevitori, amplificatori, di tutto, guarda l'ultima cosa che ho acquistato è un amplificatore Yamaha per casa, prima di quello pochi mesi prima un altro amplificatore e tra l'altro questa persona che ho conosciuto su subito è un personaggio a livello mondiale, ci siamo conosciuti alla fine ho capito chi era, sono cercato su internet, è un musicista che suona, non mi ricordo se il violino o il violoncello, che ha suonato, l'unico italiano che ha suonato a Coso, come si chiama? A Mosca, come si chiama? Al teatro di Mosca, al Bolshoi, non so come cavolo si chiama, ed è l'unico italiano che ha suonato lì, l'unico persona che ha suonato con questo violino, non so se era Stradivario, cosa era, Gabriolino, è proprio un personaggio storico, e ha venduto questo apparato, ci siamo sentiti per telefono, gli ha detto ma chi dove sei, eccetera, eccetera, sono appassionato di musica, mi ha detto, ma cosa fai? Mi entra nel sito, sono entrato nel sito ed è un personaggio allucinante, per dire, molte volte ti capitano queste coincidenze. E il passaggio, Robe, senza passaggio te l'ha dato? Qual è senza passaggio? Il passaggio, il camper, senza passaggio te l'ha dato, l'hai pagato e basta. No, l'abbiamo fatto lì a Genova, ma di lì fai una qualunque agenzia, anche nel coso lo puoi fare alla, come si chiama, circoscrizione, fai con una macchina a bollo, ti mettono, ti trascrivono il nome del nuovo proprietario e basta, poi qua se ti fai la trascrizione al PRA, ormai si fa così. Adesso è più veloce la situazione. Va bene. Io ho acquistato anche la musica, sono andato a Roma, me la sono presa, ne abbiamo preso tre di macchine, figurati, siamo andati in due, abbiamo preso tre macchine, due multipla e un'altra, abbiamo fatto tre volte Genova, Cime, Genova, e Roma, Civitavecchia, portata una, poi rientrate, ne abbiamo preso un'altra, di nuovo rientrate e portata un'altra. Allora non conveniente. Io infatti se devi acquistare macchine non conviene comprarne qua, meglio ti giochi un trasporto del mezzo, io ci ho risparmiato più di 4.000 euro comprandomi la macchina mia. Ma sono ladri, cioè se una cosa vale 5 la vendono 8 e il rapporto è quello lì, a me non è il 30% in più del valore, quando non è il 50%. Tu vai e scegli una cosa che ti piace, entri su subito e scrivi Sardegna, lo stesso prezzo, cioè lo stesso bene, vai a cercare, lo metti tutta Italia, di media costa dal 30 al 50% in meno, poi ci sono anche offerte magari più allettevoli, però la media è quella dal 30 al 50% in meno la paghi una macchina. Sì, è così. Tutto è che se prendi qualche fregatura, se si può Sardegna, puoi andare a protestare, a fare lì a Roma, ogni volta di piazza sopra, barocchi di cazzo, ma c'è da quello. E come quello che si mette dentro in Croazia, se succede qualche cosa poi cosa fai? Dove in Croazia sto? Vabbè, nah, già, io lo faccio permettere, quando ho acquistato me la sono tutta quanta controllata benissimo, addirittura quando l'ho vista, lui non era ancora arrivato in questo locale e ho detto no, non può essere questa la macchina, perché ce n'erano due, ho detto troppo poco, non è possibile, c'è che l'ho provata, girata, tutto quello che dovevo fare, ho detto questo è un affare mondiale, cioè già appena fatta la frizione, freni, pneumatici nuovi, pulita, ordinata, se ha di nuovo ha preso mio cugino una macchina, l'altro giorno una Smart, tu sei scemo, ha preso una fregatura allucinante, perché dice che hanno appena cambiato il motore, c'ha 30.000 km, ma che tu la macchina la paghi 1.500 euro, 1.200 euro, lui l'ha pagata 2.500, 1.000 euro oltre il valore del mercato. Sai come ha preso la Smart da poco, ha cambiato la macchina, cazzo, quella che c'aveva era una Opel, andava benissimo, se l'ha cambiata, si è preso la Smart per avere una macchina piccola per parcheggiare in città eccetera, ha fatto un affare, mi ha dato la macchina, aveva un motore mezzo fuso, per due volte si è fermata in strada, dicevano che faceva un bel fumo, le ha portate due o tre volte, le ha tenuto anche 15 giorni a volta, alla fine si è rotto le palle, gli ha fatto le buci, e c'era un pezzo del motore a cavallo, non so cosa sia, che costa 1.600 euro e gli hanno fatto in garanzia, loro stavano cercando di far passare la garanzia per non farglielo loro, capito? Un affare per chi l'ha venduta. Sì, ha detto bene, purtroppo ci sono troppe persone ingenue e troppe persone che con la fretta di acquistare hanno detto a mio cugino, no, biglia, a parte conoscevo la persona, ha detto non prenderle, che è una fregatura, ne avevo trovato una che costava un po' di più, però cacchio, nuova, del 2007, questa è una macchina del 2000, l'ha pagata una cifra da paura. Solo alla fine ha detto, per non umiliarlo, ha detto, vabbè, dai, ormai l'hai presa, però cacchio, ce l'ha tagliata nelle gambe, infatti ha detto, questa macchina tu non hai dei problemi che ti dà, perché è la prima serie, quella che ha dei grossissimi problemi. Gli ha detto che il motore gli aveva fatto 30, prima il motore glielo dava nuovo, a 0 km, da 0 km sono diventati 30.000, per me ne ha molto di più quel motore. Però abbiamo fatto con il chilometraggio sicuramente, la mia di sicuro ne ha 220.000 di chilometri, roba, e sta sempre andando, e come il primo giorno che l'ho comprata, te lo so, devo dire, la Opel è Opel, non voglio di fare. Le macchine più o meno vanno tutti bene, i motori, ormai le macchine di adesso raramente hanno dei problemi meccanici, hanno più che altro problemi elettronici, se tu poi li fai tagliandoli, cambiandoli nei tempi periodi giusti, l'olio, il filtro, eccetera, eccetera, i motori fanno 300-400.000 km. Il problema di queste smart che avevano dei problemi congeniti, cioè di costruzione, di problemi di progettazione, infatti li hanno subito modificati per motori, la prima serie, non ti facevano più di 70-80.000 km, erano casi eccezionali quando si arrivava a 100.000 km, ma erano colpi di fortuna, perché c'erano delle usure congenite che dopo quel numero di cose, di chilometri si spaccava il pezzo, per cui si spaccava il motore. Adesso poi hanno fatto i motori nuovi, di nuova generazione, li hanno eliminati più difetti, però io dico, c'è una macchina del 2000, c'è un motore di 30.000 km, però ce ne sono scritti 160.000 nel contachilometri, anche se succede 30.000 km, l'usura delle parti in movimento, tutti i cinematismi, dagli ammortizzatori, bracci oscillanti, cuscinetti, eccetera, eccetera, c'hanno 160.000 km, è inutile che tu mi muovi un motore di 30.000 km, è tutto il resto, cacchio, della macchina. Infatti, a continuare una cosa si fa scialato, diventa una spugna assorbendo i soldi. No, no, io macchina seconda mano, roba, non ne compro più per esperienza. Avevo comprato a suo tempo, quando ancora era in voga, un 127 da... come si chiama? Quello che ha anche il caratteristico, quello che c'era a farlo, c'è quello a farlo me, vabbè, già mi hai capito, quello con i capelli rossi. Avevo comprato lì la 127, mi ha detto questa va benissimo, c'ha pochi mesi di vita, questo e quell'altro, verso l'altra, che c'ha con la 595 Giannini abbassata dietro, tutto quanto, e ho preso quella lì. Esco dal coso, vado, mi si spegne il motore perché ancora non conoscevo la frizione, la cavalcavia, vado a rimettere il motore, non rimetterò il motore, la batteria a terra. Vabbè, vado lì, mi carica la batteria di nuovo, dopo un paio di giorni si scarica di nuovo. Io ho detto, cosa c'è la batteria che non serve? Lui ha metto la batteria alla macchina. No, è quello originale, vabbè, mi cambio la batteria. Vado a Platamona con mia moglie, che eravamo fidanzati, non riuscivamo a tornare perché mi si è rotta la farfalla che tiene il cambio. E abbiamo fatto in prima da Platamona sino a Sassari. Ogni tanto mi fermavo, la facevo raffreddare e poi di nuovo ripartivo, aspetta, sono arrivato a Sassari. Ma immaginati come? Purtroppo ho capito chi era, mi hanno affidato tutti uno, quello lì, vabbè, ok, i nomi non si fanno mai. Purtroppo, io so, bisogna stare attenti, anche questa è una fortuna. Io macchine nuove mie personali non ne ho mai acquistato, le ho sempre acquistate usate, però forse sono stato fortunato, sono tutte andate bene o più o meno bene, qualche piccolo problemino l'hanno avuto, ma niente di irreparabile, nel complesso è andata bene. Ma io ho visto anche macchine nuove, acquistate nuove, che hanno avuto grossi problemi. Riprendete voi un attimo, sto facendo roba. No, mi sono fatto un attimino, ma avete chiamato? Io so che ha picchiato anche un operaio, l'ha preso a schiaffo una volta e l'ha denunciato. Perché non le ricontrollava le macchine quando le ritirava, ci sono ditte e sedi tipo la Opel che le macchine le prende, gli fa il tagliando, quando le ritira le controlla tutte, gli danno una controllata generale e poi le prende a seconda mano, ma ci sono ditte che come le ritirano se le danno, non le controllano nemmeno. Libero. Che non vedo tutto, non si fanno mai nomi, non ce ne sono pochissime, le FSI le fanno tutte, le concessionarie. Un amico mio, la concessionaria che ha detto tu lo sai cosa gli ha fatto, ha portato una macchina in officina, nuova, acquistata nuova, di quella chilometri zero, non nuova, però gli ha immatricolata quella chilometri zero, è venuta in officina, si è sbattuta, e c'è l'assicurazione, è venuto il perito dell'assicurazione, ha controllato il perito, ma questa macchina io l'ho già vista, l'ho già periziata, come già periziata? Questa è la macchina mia, lei non la può aver mai periziato, ma sta scherzando. Ha detto venga un attimino in ufficio, gli ha fatto vedere le fotografie, quella macchina era già incidentata, ma un colpo forte davanti, non gli hanno detto niente e lui se l'ha acquistata come macchina nuova a chilometri zero, per dire. E ho sentito da tutte le parti, le concessionarie, quando deve ne fare cose, non guarda la faccia a nessuno. Sì, infatti. Io lo so, perché avevo un amico che faceva il carrozziere, adesso non faccio i nomi, e mi ha detto io mi vergogno anche, c'è questa concessionaria, mi ha fatto anche il nome, mi porta le macchine che ritira a seconda mano con i buchi, mi fa mettere la carta dentro, me le fa stuccare, va bene meglio, come me le paga io gliele devo fare, però dice mi vergogno anche perché mi stuccano io, poi alla fine se poi gli dicono dove le fanno, alla fine ci rimetto io, mi sa che non gliene faccio più perché dice fare le macchine così a me non mi piace, che te l'ho visto buttando il buco e poi stuccando. Lo so, un'altra concessionaria, sempre senza far nome, concessionaria, venditore, ha preso mio cugino, aveva ritirato di un cliente una appunto tre porte arancione, che era un colore blu più arancione metallizzato, che ce ne sono poche a Sassari di quel colore, colore bruttissimo, l'ha portata, ma proprio distrutta la macchina, nuova c'aveva 3.000 km, proprio da buttare, figurati mio cugino l'aveva presa e ha detto adesso non so se ripararla, ha detto beh non me ne ha fatto nulla, io questa macchina non la riparo, perché non ne valeva la candela, nel senso era troppo grosso, dovevi fare sostituire il tetto, tutto un sacco di roba, un bel di danno c'era, anche se era nuova. Alla fine è venuto un altro collega a carrozziere, ha detto ma la prendo io, gliela pagata, non mi ricordo quanto, un poco, più o meno quanto l'aveva acquistata lui. Questa macchina dopo qualche mese l'ha vista in giro, l'ha trovata con questo amico che lo conosceva, ma questa non è una macchina di co-, sì no, questo l'ho preso da questo aziendale, una nuova aziendale, questa è una macchina disintegrata, questo non sai cosa ha fatto, ha preso la capota di un'altra macchina, questo carrozzere, l'ha tagliata e gliela soldata a quello, figurati che l'esistenza potrebbe avere questa macchina, gliel'hanno venduta come aziendale. Non è in Giulio, i venditori di macchine sono i punti vecchi. Grazie. l'ho riconosciuto, pensavo fosse un'altra persona, mi vedi un professore di un'università, di un centro di ricerca. Che c'ho la radio che spacca, compagno, la radio che spacca forte. E siamo scienza, non fantascienza. Ciao, vero. Ciao Roberto Quadrato, ciao Gianni Vecchi, ormai triplo room, ve l'ha detto che ha compiuto gli anni, sì, e ciao anche Marcolino il Condor. Stasera stavo per fare una cosa, ragazzi, mi se mi fosse riuscita alla grande, ero lì al Tramite che stavo curando un attimo i distributori, a un certo punto sai chi è arrivato, l'amore tuo, è diventato un bove, ed è entrato dritto nel bagno degli handicappati, poverino. Falcone! Sì, gli stavo per fare una foto, poi mi sono impappinato con la macchina, alla fine non sono riuscito a farla, ma è diventato un suo, è un bue per me. Va sempre da Ocean comunque, anche lì l'ho trovato. Si fa il giro delle quattro cantonate, e sicuramente era con la madre, perché di solito lo vedo con la madre, col fratello. No, il fratello, non so chi sia, forse il nipote. Boh. Come ti hanno festeggiato prima di ripassare il mic a Roberto Quadrato? Come ti hanno festeggiato Gianni Doppio Ru? Festeggiato a casa, vai. Carino, le solite cose, i dolcini, la crema catalana, la pasta al forno e via dicendo. Ah, la stessa cosa che ho mangiato io in agriturismo, soltanto che ho pagato 25 euro. A te quanto ti hanno fatto pagare io? E lui che ha pagato? Lui ha dovuto pagare 40, quanti sono? 50, 54, 54. Ah, se volete andare in un agriturismo a mangiare con eleganza, un locale spettacolare, roba buona, proprio naturale, fatta da loro, bellissimo posto, andate alle Pinnette prima di arrivare a Fertiglia, prima dell'aeroporto militare a destra, c'è un locale spettacolare. Se bisogna andare là, basta venire qua lo stesso. Dove sei tu? Io, se sai, mi dì la Gianni dove sono. Sono vicino al Mediterraneo. Non ci sono mai andato, ma l'ho trovato, ma le segne ci sono, come si chiama il locale barra? Turismo Monte Arcuri, però noi stiamo lavorando soltanto con le camere, siamo chiusi dal 2010 con la sala, da prima lavoravamo, adesso conviene manco lavorare con il ristorante, conviene lavorare con le camere. Infatti prima si chiamava Agriturismo Monte d'Arcudi, adesso che lavora solo con le camere Agriturismo Arcudi. E siamo agriturismo a Monte di Gozzo con la frase, mi devo offenderti. In italiano come si chiama? Sì. Ecco, te la codi in sardo, in italiano. Te la codi sempre, stiamo facendo soltanto B&B. Ah, così. Comunque, questo locale che sono andato io fanno anche la pizza loro, completamente fatta da loro, dalla farina, tutta prodotta da loro, l'olio, l'unica cosa che non producono è la cosa, la mozzarella che usano con la morea e i pelati casa, tutto il resto, dal lievito, la farina, cosu, carciofini, olive, tutto quello che c'è che fa parte della pizza è fatto da loro, ma tu se assaggi quella pizza penso poco che ce ne siano in giro. No, ma allora no, potete andare, perché qua lo volevo fare, vado lo stesso, la pizzeria, agriturismo, pizzeria, e ce ne voleva poco di roba qua, là, allora non ne ha fatto. Lo voleva anche dare in gestione la sala per fare pizzeria e dopo non ne ha dato, là. Vabbè, è la prima che vedo di pizzeria che fa questo discorso qua, ma veramente è buona la pizza, mi ricordo la cosa più buona era la parte della pasta, che è particolare, gli ingredienti, perché tutte le cose, le melanzane, le zucchine, i peperoni, i carciofini erano cose squisite, normalmente le pizze usano quelle conservate, le cose, questi prodotti e fanno schifo, col tempo poi ci rimangono sullo zoo, questa è veramente buona, niente da dire, infatti sono già andato tre volte in tre momenti diversi e sono stato benissimo. E dimmi un po' dove sei andato tu invece già? Sono io a casa Roberto, non ci sono andati da Vittorino, sono andato, l'ho fatto a casa, cioè me l'hanno fatto mia moglie, mia figlia, hanno preparato un dolce, dal dolce al primo, secondo, eccetera eccetera. Ma il contrario, è dal primo al dolce, se no hai fatto due rendere più. È una roba genuina. Adesso quando è fatta in casa, normalmente anche io sono stato bene, siamo stati invitati dalla madrina di mia figlia, mia cugina acquisita, con mio cugino ci ha fatto una festicciola, domenica sono stati invitati io in questa di turismo e oggi ci hanno ricambiato la visita. Dimmi un po', è grode, e tu quella roba che devi fare, dimenticato te ne sei o mi posso tagliare la miera? No, se ti serve usarla, usatela, assolutamente. Però cosa che quindi devo adesso non ne viene bene parlarne qua. E quindi devo aspettare che mi diano, che mi rilasciano un certificato per cose che poi dirò, dai, non mi va di parlarne in frequenza, che poi c'è, come si chiama, il Condor, che è un pochettino, senti, mi sta mangiando anche la lingua dalla fame, un pochettino c'era Medusa, non è il caso di parlare. Poi sicuramente c'è anche lo Sparviero in radioascolto, e già lo sai com'è, a tutti i dì. Beh, quindi non ti conviene metterti lì, ti metti un paio di persone, ti metti a fare distribuzione manuale, ti metti lì seduto e ti metti a venderle a cosa, a mano. Esatto, ma la moneta dove gliela devono mettere? La moneta non gliela farai, ti fai pagare in carta per la moneta. No, perché allora vendi, beh, c'è una burocrazia, una cosa un po' particolare. A proposito di cosa, adesso che l'ho chiamato all'appello e non si è ancora sentito, dov'è lo Sparviero? Sparviero, esci fuori o ti staniamo? Eravamo fuori un pochettino spostati prima tutti quanti, Claudio non voleva, ha detto che non li andava, che ha detto le cose giuste, infatti anche io ho detto che è meglio spostarci di nuovo. Siamo ritornati qua, non so se sia sul 10, ma lì, se c'è sta ascoltando, sono buon per lui, dove ti dica. Ok, chi c'era? C'è anche Capri da quelli di Muro, sono avanti Capri. Vabbè. L'interessante è vecchiare, qualcuno è più interessante vecchiare, naturalmente vecchiare bene, dai. Caro ragazzi, io vi lascio, adesso me ne vado tutto a mangiare, a proposito, perché mi avete fatto venire la fame, se non ci avremmo manco pensato. C'è ancora la pasta al forno che mi aspetta, e le altre cosine, andate. Ci è rimasta un po' di roba e ce la andiamo a sbaffare. Fai bene Gianni, fai bene Gianni. Mi sei invitato, per carità braccino che sei. Ciao Gianni, chi è che era l'altro? Scusatemi, ma ho sentito un segnale basso, forse avete chiamato Gianni di Muro, se non sbaglio. Mi confermi, Roberto? Yes, Gianni da Muro, Capri 2 per gli amici. Ciao Capri 2, io ti sento con un segnale molto basso, non so per quale motivo. Come basso? L'ascolto in basso, qua sta arrivando 9 più 10, qualche tipo di tiri a quasi a 15. Ma siete, lo sto ascoltando. Aspetta un attimino che provo a accordare, ma non ho stazionario, quindi. C'è l'attenuatore inserito? Non è che c'ho l'attenuatore, no? Aspetta un attimino, ma non è vero, l'attenuatore inserito, no? Da che arrivo dalle tue parti? 9.40. Idem con patate, 9.40 spaccato. C'è anche uranio da, come si chiama, da Usilo, vediamo un po' se c'è ancora avanti uranio. C'è Marco Condor in quel di Sassari, avanti di nuovo Marco. Io mi sto bloccando, che mi sono stancato dall'uscita, quindi sono un po' inerte, riprendete voi. Perché dall'uscita di che cosa? Dove sei andato? Di la verità. Sì, un giretto del cavolo ho fatto, trattavo una produttore, e poi sai, mettere il volume basso, con le voci mi fa addormentare. Basso di che cosa? Volume di che cosa? Volume della radio. Perché stiamo arrivando a basso di radio? No, volume, io ho messo il volume basso. Tanto quali tante è una grande che la ce la fai vedere. No, guarda, allora tu immaginati, mi sono fatto finalmente la canalizzazione per poter chiudere le porte, perché prima passava dalla porta a finestra. Cioè devo dire, Robè, non è giugana, ma non è proprio gana, non ne ho voglia zero. Oggi ad esempio sarebbe stata una bellissima giornata, che sono uscito a Villanova, non so che cosa, perché c'era una specie di festa dello sport, e sono arrivato lì, i barracciati avevano chiuso la strada 1,5 km prima della festa. Il solo pensiero di andarci a finire l'ho fatto, lasciamo perdere, torniamo a casa. Mi sono fermato in un agriturismo con degli amici a Padria, ci siamo strafogati d'anima e siamo rientrati in MLM. Dimmi una cosa, c'era quella fare manifestazione di auto d'epoca, automoto d'epoca, passava anche a Villanova, c'erano degli amici che andavano. A Perugia, infatti c'era un rientro di Cancelli, ne ho visto un po' di tutti i colori, dal 600, però non come quella che avevo io con gli sportelli controvento, ma la 600, il secondo modello, fino ad arrivare a 205 rally, una cosa abominevole. Vabbè, dai, rivedere qualche mattina. macchina d'epoca, io sono una mia appassionata, io ho la 600 di sportelli a vento, i generati dietro quali, posteriormente del 57 ne abbiamo una. Caparo, infatti me lo trovo per dire, non come quella, cioè come quella che c'hai tu, io ce l'avevo invece con gli sportelli contro vento, non a favore, se ti si apriva non ci sarebbe di tutto. Ma tu immaginati, con la macchina non so se ricordi, almeno non so se la volta è lo stesso, consuma più acqua perché c'è il radiatore sottodimensionato che benzina. Sì, vabbè, naturalmente gli impianti di raffreddamento dell'epoca erano un po' critici, e si mettevano normalmente acqua, poi quello andavano subito in ebollizione, il calcare intasava i tubetti, i canali del radiatore, no? Adesso quei problemi utilizzando i liquidi specifici non esistono più. Le 500 andavano proprio per 1500, le 600 andavano in ebollizione anche per quel motivo, anche le 850 un po' meno. Noi quando facevamo i radiatori erano esempio di 600 e di 850, perché si buttavano sempre acqua dentro, nessuno usava il liquido anticongelante, dai. Per cui il calcare con l'acqua di sassa già si sa, ma alla fine ti chiudeva il circuito, è come che non ne avevi tu di radiatore. No, mio nonno ricordo che gli dava sempre quel boccione dell'acqua distillata, assolutamente. E poi la 600, che è uscita prima della 500, aveva già il cambio sincronizzato, perché il cambio sincronizzato era un opzionale, non è che non esistesse. Vabbè, sincronizzate non tutte le marce, la 600 non credo che erano tutte sincronizzate. No, sincronizzate erano sincronizzate, cioè nel senso che in scalata non dovevi fare la doppia debraiata, capito? Sì, quello sì, però come fare forse la quarta non era sincronizzata, lì la quarta era retromarcia, non era sincronizzata, non era 600, la prima era retromarcia, mi sembra non era sincronizzata. Se tu vuoi vedere, a tutt'oggi qualche macchina non ce l'ha sincronizzata la retromarcia, infatti ti dà dei grattoni, basta che stai andando leggermente in avanti e entri in retromarcia e fa casino. Solo male e non è nemmeno forte. Cos'è che sto dicendo male? Cos'è che stai dicendo? Adesso è meglio. Comunque sei appena più cupo, tra virgolette, hai più ribassi del normale, hai cambiato apparato. Oh, basta rimettere i settaggi come devono essere messi e non c'è problema. Guarda come sono adesso. Ma se c'è abbastanza per segnare, ma è cosa? Guarda adesso, aspetta un attimino. Datemi 2 secondi che mettiamo tutto a posto. Segnare così, potenza così, cosa così, guarda un attimino come va, ola, 1, 2, 3, prova. Allora, poco fa il 9,40 spaccato, poi sei sceso da 9,20, adesso sei 9,35, non ho capito cosa deve venire. Ma mi sono dimenticato una cosa, Marcolino Condor, guarda cosa succede in questa specie di giocattolo che però è una radio seria. Mi sono dimenticato di schiacciare questo pulsante, ops, senti un attimo la differenza. Ola. Adesso ti piace la modulazione Marco Condor? Sì, di più. Prima era un po' più così, adesso è più chiara. Toni più acuti, da. Certe volte li preferisco. Adesso c'è un pulsantino schiacciato che si chiama Height Boss, che vuol dire stacca tutto. Che ti arriva più forte, io o coso? Antonio o Marco? Allora, uno per volta, mettete la portante in muta. Avanti Roberto. Avanti Antonio. Ma Antonio vede che stia pompando, perché Roberto è 9,25, Antonio è tipo 9,28, 9,29. Aspetta adesso, il signore ha fatto il fulbo, lo faccio anche io. Roba di 9,32, da. Ammazzo quindi, era un pochettino. Infatti ho visto Antonio, ha fatto il furbetto. Ma le cose normali, tu, bello bello. Aspetta un attimo, voglio fare il furbo, dammi 2 secondi, dammi. E poi le prove si fanno a parità di watt. È inutile, uno ne usa 50, uno 100. Certamente, da quello. No, si fanno come tutto a parità di cose, a parità di antenne e tutto quanto, così vedi le prove. Comunque, più o meno c'è quello che ci può equivaliamo io ad Antonio. Lui sicuramente se solleva l'antenna mi schiaccia. Ma non è voglia. Deve piacerci tutte le antenne amatoriali, HF non è voglia. E così è troppo statico, sta rimanendo. Chi è che ti arriva più forte di tutti, a parte forse Claudio di lì? È difficile dirlo, perché Luca arriva allo stesso forte come voi due, è difficile dirlo, ci vorrebbe una serata, un ritrovo con tutti e vedere almeno chi passa almeno di radio, capito? E Luca arriva a livello mio, considerando che è molto più lontano. Guarda, adesso non me lo ricordo chiaramente, però arrivi sui 9.25 o qualcosa di più. Comunque siete tutti lì, perché poi quando mettete portante assieme, alla fine, quando si è così vicini di segnale, non passa né l'uno né l'altro. No, Luca a me va fortissimo, se arriva 9.25 lo passo. Più forte di gente che è più vicino di lui, sicuramente, sicuramente lo passo. Lui è più in basso rispetto a me, c'ha un po' di palatti che lo chiudono, però probabilmente riesce a incanalarsi e c'ha un bel segnale. Allora, riprovate assieme, che per adesso passa Roberto e non c'è storia. Provando tutti gli apparati, guarda. Se vogliamo fare danno andiamo in FM. Ma parlate assieme, vediamo cosa succede. Per adesso passa Roberto. Hola, hola, hola, hola. Ma c'è pompi, non c'è gusto. Chi è che passa? Non ho capito, non sono riuscito a capirlo. Certo, chi è che passa? Hola. Riprovate, parlate, dite il vostro nome, però se non capisco chi è. Il grode. Canale 10, 27. Il grode passa sempre. Ora. Passa Roberto, riesco a capire la sua modulazione. Non è vero palancente, davanti. Aspetta, ne vado sull'altra, io ciamba. Non ho trattato il microfono, mi svegliati chi ci vuole. Cis. Ancora siete con questi combattimenti, eh? Lui è da perdere la potenza, ne c'è due Claudio. Ma Claudio schiaccerà sicuramente a tutti, dai. No, oh, io mi sto guardando l'Inter, per Luca, ha preso un gol da Torino, da centrocampo. E ha fatto una cagata, due l'Inter. Ma non è l'Inter, tra. Perché pensi che riesca a vincere a Torino, col Torino? Non credo proprio. Adesso con punto intanto si manda a guardare, così la abbassa la cresta pure lui, dai, insomma la guarda anche un po' di partita, dai, facciamo rivenire avanti l'amico il Grode, avanti il Grode, da un kilowatt e butta giù la centra, come sta? Provocare Antonio per questa la monello è un casino mantenerlo, dai, ciao, ci sentiamo ragazzi, statemi bene, ciao a tutti. Ciao Cla, aspetta, stiamo lasciando il paolo, ora, guarda un po' Marco lì. Ah, capi due, attenzione alle capi se copri. Ora. Cosa stai cercando il Grode? La schiacciatura ti faccio. Attendo per aumentare la potenza. Allora, anche adesso di modulazione passa Roberto. Ho capito, allora ti devo fare male Roberto, mi sa che ti faccio male adesso. Cosa stai mettendo? Il generatore di corrente perché non ti basta più la corrente di casa. Dammi solo due secondi. Antonio, non consumare corrente. Da già la voce di si sta forzando, perché si sta forzando a farlo. E capri due, chi riceve meglio, Roberto o Antonio? Ma già lo sai chi è il numero uno da questo? Ma Claudio Capri, Claudio c'ha un'ottima posizione, purtroppo c'ha l'antenna troppo in basso, non riesce a irradiare come dovrebbe, se la tra di un paio di metri lui schiccheggia forte, non so se magari verso la tua parte è aperta, però per la zona di giù si faccia un po' di gente. Sì, ma io sono a polizia orizzontale, non verticale, attenzione, l'antenna girata tutta l'altra parte. Divertitevela, fate prove, ciao a todos. Allora, mi ero proposto di andarci però proprio così a livello UC, a provare, a riprovare, però ho avuto tanti problemi, già lo sai, inutile elencarli, per cui per questo periodo lasciamo perdere. Dai. Già lo so, molte volte capita così proprio. Antonio probabilmente sta mettendo un altro gruppo elettrogeno perché 6 kW non ce la fanno alimentare lineare. secondo me si sta allacciando alla rete elettrica del vicino. No, si è fulminato con le valvole, cacca, toccando la cosa, è copiata la in mano a valvola. Ah, che non è lineare, non è lineare, deve essere bene così. Oh Claudio, qua c'è un difetto strano, mi si blocca l'AGC, praticamente l'ago non scende e mi chiude tutti i segnali bassi. Come ti si blocca l'AGC? Vuol dire che hai toccato il livello dell'AGC? No, negativo, mi aspetta che me lo rapportante. A 9 si è bloccato. Sai che la lancetta con la GC lento scende piano, no? Questo scende pianissimo e a volte si ferma. E non sento per esempio Capri 2, Uranio. Toglielo in fuori, no? Cos'è? In dentro o in fuori? Adesso è in fuori, a GC lento. Mettilo veloce, no? Che banchi non sai tu? Sono 40 già, mettilo veloce. Bloccato, si blocca, scende pianissimo e poi si ferma. Sai che c'è l'RFG regolato sui segnali di 9? No, no, è a manetta. L'ho notato. Aspetta, molla un attimo. Deve essere tutto chiuso, che è a manetta. Sì, si blocca. No, non c'è un problema. Ricevere tutti quanti. Non ho fatto, è da un po' che me l'ho fatto. Vabbè, torni qui. È mollo. La scala chiave adesso. 9.45 sei qua. La stai utilizzando. Ah, io me la vado a fare. La scala chiave. Ciao Capri. Ciao a tutti. Guarda che sicuramente hai toccato le freghe comunque, perché il livello di AGC non è quella radio. Allora no, l'RFGIN non è stato toccato, dal giorno che l'ho comprato. Guarda gli schiaffoni che gli do, Marco Condor si è schiacciato, cava cava. Per farsi. Ma schiacciato giù. In tutte e due le posizioni tende a scendere pianissimo e le volte si ferma con... Arriva Roberto, Chiccia. Ho salutato due volte che è morto, non mi ha risposto a me. Se ti ho chiamato anche, Roberto, Chiccia, il PTT, che ti schiaccio bene bene. Duca, a me mi schiaccia. Porto lo sento, e ho un pompa Antonio, guarda che ce l'ho davanti. Ma lui non sta uscendo con quanto sto uscendo. Non è vero, sto uscendo con due volte morsicanti, cambio. E vabbè, già me dà di fastidio, non lo provocate, tu diventa monello e non deve diventare un monello, deve essere bravo, che è un ordinato del Siri. Tornando a prima la partita, mi avete rotto, ciao a tutti, abbracci, baci, lodi e squisitezze, ciao. Marco, se hai problemi portamelo qua, così alla radio non capisco niente. Oh signori, ci siete ancora, facciamo un riepilogo, che io seguo le indicazioni di casa, anche io vado a vedere un pezzo di partita. Però deve farti sentire quando vuoi, già lo sai dove sono, idem per gli altri. QRT da parte mia, canale 10, io chiudo, buona serata, buon proseguo di serata a tutti, ciao Claudio, ciao Antonio, ciao Capri, ciao Marco e tutti i eventuali ascoltoni canale 10. QRT da parte mia, ciao. Allora, questo AGC praticamente se è lento la lancetta e la ricezione, la lancetta scende piano, no? Scende piano, serve a vedere meglio i segnali, per esempio in banda laterale, no? Per evitare di farli oscillare troppo. Se lo metti veloce scende subito la lancetta. I baracchini praticamente non ne hanno, ma è come se fosse AGC veloce, capito? E non si può spiegare in altro modo. Ciao Claudio, comunque, ciao Roberto, ciao. Claudio. Roberto ha capito che erano schiaffoni forti, ha pigiato i ferri e è andato via. No, adesso diciamo che per un passaggio vi ho sentiti. Allora succede questo: tu arrivi in pare 9.25, lui lo stesso, però la radio tua è parecchio forte e quindi diciamo copre la modulazione, però allo stesso tempo passi e non passi, capito? Ma chi, io o lui? Tu. La modulazione è molto forte, quindi diciamo che sovrasta la sua, però si sente male anche la tua. Ma di chi stiamo parlando? Chi è? Chi è? Buonanotte, da. Io sono rientrato, se più vi può interessare. Sentito una portante, chi è? Ciao, già, ben rientrato. Appaga, stasera già avete detto di fare le ore piccole. No, io personalmente adesso me ne vado, che sto iniziando il Dr. House, poi c'è Nip and Tuck e poi c'è Shameless. Se la giornata è conclusa, perché non diventi un critico televisivo, giovane? Io? No, non mi piace criticare. C'è ragione anche tu. Aspetta, tolgo l'eco. Poi fa concorrenza col cappone di Sgarbi. Non riesco a togliere l'eco, aspettate. Hola, sì, adesso non c'è più. 1, 2, 3, prova Marco Condor, gaba. Aspetta, rifai lo stesso passaggio. Elevo il noise blanker, ora, 1, 2, 3, prova Marcolino Condor, Marcolino il Condor, cambio. No, non cambia, qua è uguale praticamente. Vabbè, lasciatemi andare, dai, che vado a vedere un po' di TV. Ciao a tutti, ciao Luca, che l'ascolta, Antonio, Gianni Capidue, Gianni Doppio Room, tutti quanti, ciao a tutti. Come facciamo senza di te, Marcolino? Arrangendivi. Che mi fai tanto di, che mi fai dare il bacio in bocca, non lo voglio più io. Aspetta, c'era qualcuno sotto, avanti. Era sotto, chi è che stava breccando? No, sono io, attenzione, Condor da Capidue. Avanti. Come arrivo con questo? 7.5, picchi fino a 8, 8.5. Sempre bene. Sì, andrà bene meta, ok, riprendete, dai, Gianni, riprendi. Gianni, quando ce la facciamo un'altra cantata come quella dell'altra volta, io, tu e Antonio. Canto bene, già, canto bene, per quando c'è un fuori, come si chiama, non so, ricordo l'universo, ma da mia suocera, capito, insomma, ci siamo un po' ancora freschi. Guarda, no, mi sto riprendendo anche da questa cosa, vedi, canto bene, già, ok, perfetto, già, questo da me l'ha fatto. Cappa. Ma poi il giorno dopo hai visto che si è messo a piovere. Che abbiamo cantato troppo la sera. E tanto non è non cantato. Ok, perfettamente. Ma ti stavo dicendo già, ma quelli di Portatore, vabbè, tanto già ho sentito. Silvestro, quelli non fanno più modulato già. Silvestro, se non si decide a mettere questa antenna, far mettere. Perché lui non sale sul tetto, quindi qualcuno la deve piazzare. Dice che gliela devo piazzare, Gianluca, poi non so cosa sia successo. E poi Sandro, l'ho visto l'altro giorno, mentre era occupatissimo con il lavoro. Gianluca lo stesso, d'estate stava facendo un bel orario. E quindi prenderà l'inverno. Penso che ti prendano, sono all'ascolto questa sera. Ok, come tutti, io l'ho sognato per prima, per frate, così, ma non ho anche altri problemi, già. Ok, ma vedo un inverno già, ecco, meno, e me ne sto qui, me ne sto qui, già, nelle radio, hai capito, hai collegato, ma siamo un po' d'ora, fai girare. Ma riprendo un attimino io che ripristino le condizioni iniziali, dai, 2 secondi di bianco. Oh Luca, volevo chiederti una cosa, ci sei? Dimmi tutto. Ma non ci sei, come sei passata la festa del latte dolce? Ma veloce, sapere via Roma, c'era, non c'era gente, c'era tutta Sassari. E lì Alba come era morto? Dai, un attimino che ripristino le condizioni iniziali, dai, a dopo. Bene Gianni, dopo io. Io se voluto scendere mi ero un bel stanco, non avevo voglia. Però ho sentito tutto da casa, si sentiva perfettamente. Io dopo un po' è noioso, il Turrenga, cioè, che palle, cioè, sembra che tutti l'abbiano lasciato, le sue canzoni sono solo con questi testi melanconici che sono una rottura, uno stracciamento di borraccia. Riprendo fra un attimo. E vabbè. E beh, com'è andata Antu? Beh. Sì, dai, non ci possiamo lamentare. Già va bene, per i tempi che corrono va più che bene. E allora, interessante di sciò. Invece di pagare ti hanno pagato, se stati pagano per vedere il concerto. Quanto? Villa. C'era Sandro ieri, e si capito che sto dicendo. Seguenti, un cincato, di poco. Come mai? Come mai? Sono bella qualcosa. Si va, una scelta, a volte di sera. Allora sono le notte per andarsene, se no ce la faccio. Ascolta. Andando per mattino, beva un vino, ma c'è due finito all'Odisi. Niente, che se ne va però. Io mi sono bevuto, ma io bevo questa vita delle rocine è buona, a me piace, non. Ma bevo un'altra, una cena tipo io non ho toccato, niente. Io ho bevuto la vita delle là, quella quattro bicchieri avevo bevuto se no. Un mal di testa ieri notte, l'ho mangiato, siccome è un tipo di vita non la sopporto. Non va nel mio corpo. Infatti io bevo quella dello spin, una lattina, mezzo litro, non mi guardi nulla, niente, zero completamente. E poi una cena. E quella là era 33 bicchieri, bevuti sono 4, 5, un mal di testa di notte non riusciamo a dormire. A te lo sai che ti faccio più così la birra e così la bella? Possibile che c'è abbia un'intolleranza ai lieviti di birra, a seconda di quanto è cruda o meno la birra e non pastorizzata ti crei quel problema. Se ti viene la cagare del giorno dopo è possibile. Ma cagare, no, è una mal di testa. Ma come due punte che cercano di uscire? Di più? No, due punte, io non ne ho corda, sono single. A mezzadini che li corri sono come i ribotti, almeno un paio ce li abbiamo tutti, quindi c'è chi c'ha il calzaturificio, però almeno un paio ce li abbiamo tutti. Io ma ti ricordi tu un cugnolo di gioca quante corri? Puro di più compa. Scusa, ma se non c'è nessuno, ecco arrivato, mi ripieghi. Comunque mi ripieghi un cane, il mio cane è mio amore. Giriti, due cose puoi avere del toro mio, o le corna o il coso. Le corna sono allo stato latente in tutti noi, alle volte escono, alle volte no. Antonio? Dimmi cara. Siccome sono disinformato in materia, la birra cruda che particolarità, che sapore ha rispetto alla normale, quali sono pregi e difetti diciamo? La birra cruda è una birra detta così cruda perché è una birra che non ha subito il processo di pastorizzazione, che non viene da pastore ma da pastiera, cioè quello di elevare la temperatura del liquido e dopodiché farla abbassare nel giro di pochi secondi, in modo tale che i microrganismi, in questo caso i batteri del lievito, vengano completamente distrutti, mantenendo quelle che sono le peculiarità gustative della sostanza stessa. Chiaramente cosa succede però? Che molte cose, tipo quello del diciamo l'aspetto benefico dei batteri, del lievito di birra, che sono d'altro grado di digeribilità, lo perdono completamente, cioè la birra perde leggermente in sapore e allo stesso tempo in peculiarità positive, che sono quelle appunto di farti digerire le cose perché ti aumenta la flora batterica dello stomaco. Detto di questo spero di avere in qualche modo soddisfatto quella che è la tua richiesta, la tua domanda. Avanti di nuovo. In poche parole, più buona o meno buona della birra normale, di una normale birra? C'è la stessa differenza che ci può essere fra uno yogurt piatto della, cosa vuoi dire, della Danone e uno yogurt invece della Coapla, che è molto più acidulo, molto più delicato, tant'è vero che la birra cruda va tenuta comunque a temperatura sempre al di sotto, se non ci inacidisce, è un po' come il vino, capito? Come il vino nostro, cioè il vino di proprietà o il vino pastorizzato delle cantine Selle Mosca. E dopo un po' se non lo tieni in una certa condizione parte lo spunto, si inacidisce e è fatta. Ho capito, va, si rovina prima, buona sapersi. Continuo con la birra normale. Va bene, grazie delle info. Però provala, perché ci sono molti che la trovano molto più buona, assolutamente, perché proprio perché non è così piatta, ha un gusto molto più corposo, capito? E che l'indomani ti fa digerire molto velocemente e ti viene la cagarella. Detto così, la cagarella. Ma a me l'unica birra che piace veramente è la Didamon, che c'ha 12 gradi alcolici. Sì, però la vera birra, quella che ne ha di più, che si chiama la EQ, che è scritto Eco Kilo Uniform, è una birra che ha 15 gradi volumetrici, ed è abbastanza. 15 gradi, minchia, quella cuoce subito, la voglio provare, assolutamente. Guarda, il negozio più fornito di birre per assurdo è l'Auchan. Aspetta, sto morendo. L'Auchan. Vai all'Auchan e c'è tutto il reparto birre, ed c'è da quella austriaca a quella burda cinese, le trovi tutte quante, a meno quella che poi Luca va a comprare all'Eurospin, che secondo me merita, perché è buona, a me piace lo stesso, è diciamo passeggiabile. Sì, l'Auchan ho visto che c'è un bel po' di roba, però quella che voglio io non c'è. È una birra belga, si chiama Delirium Tremens, ed è ad alto tasso alcolico, tipo la Didamon. È molto dolce, sembra spumante di quella birra. Quella ne ho bevuto tantissima, infatti ho problemi per quello, di Delirium Tremens. Ce l'avevano prima, ce l'avevano fino a un anno e mezzo fa, un anno fa, dai. Poi sparita, non l'hanno mai più riportata. Anche perché non è facile da trovare. Va bene, detto ciò, vi saluto e ritorno alla TV. Ciao a tutti. Sai che cos'è il delirium tremens? Un tremore, non mi ricordo, dovuto a cosa. Il tremore è dovuto all'eccesso di ingestione di alcol, che con l'andare del tempo ti brucia i neuroni e ti mette nella condizione di avere il suonamento della chitarra come quelli che c'hanno il Parkinson. Bella roba. No, non ci voglio arrivare a quel punto. E piano. Dice, lascia un po' di tempo. E c'è una massa di alcolizzati. Io sì. Non bevo nulla, non ci faccio nulla a questo canile. Ci ha dato dei cani, capito? No, io per digerire non bevo niente, il birra, il vino, non mi piace una pranta. Però per digerire c'è il gin e poi il rum. Il rum è una Havana Club, il gin è il Gordon's. Io non bevo super alcolici. Acqua e basta. E il vino lo beve solo mia moglie a pranzo, un bicchiere e basta, ma pasteggiando io non bevo nulla, niente, proprio nulla, solo acqua. Lo so, io sono quasi astemio già, però ogni tanto un millilitro di rum me lo faccio anch'io. E con la pizza mi piace la birra. Sì, con la pizza sì, con le patatine anche. Ci sta bene. Vivi, vabbè, vivi un po' la bella con la pizza. L'altro giorno ce ne siamo bevuti due bottiglie con la pizza, ma ci sta abbastanza bene. Però verrà fuori pasta, come fanno i ciechi con l'albara, bruci due o tre bottiglie di birra, non mi piace. C'è una birra da Shan che si chiama Buffa, e c'è disegnata una pecora, mi pare che la facciano a numero. Buffa. Sì, Buffa c'è scritto, e la pecora disegnata. Nell'altra c'è disegnato un uraghe, ci sono varie varietà di birra, nell'altra c'è disegnato una maschera, cos'è quelle con le corna, tipo mamutones? È maschera sarda. Sì, capa, quelle un po' aliene, capito, tipo predator che ha le corna lunghe e i lati. In verdules ce l'ha. Esatto, sì, più che mamutones ce l'hanno in verdules, quelli con la pelle bianca, con le pellicce bianche. Va bene, vi risaluto. Ciao, ci sentiamo, Avanti Antonio Grotte. Eccolo rientrato che stavo ripristinando un attimino. In realtà mi dispiace andarmene, per vedere un misero telefilm. Così quasi rimango qua. Pensaci bene, se ne vale la pena. Però se rimango vi fate fare il gioco della calzetta. Vabbè, te lo faccio. noi. Gianni, ma sei peloso ma le gambe. Comunque ieri vi siete persi la famosa castagna al sale. Vedi, perché siete, perché rimanete a casa a svernare, siete una vergogna. Al sale. Cappa di Rogeros, al sale. Castagna non piace. A me sì, parecchio, però al sale mai provate. Perché le devi saper fare. In breve vengono fatte cosiddette alla palermitana. Va messo il sale in una data maniera e c'è il questo connubio, che il contrasto fra il dolce salato gelato al cioccolato. Beh, magari è buona, sicuramente se è fatta bene deve essere buona. Guarda che il dolce salato lo ritrovi in quasi tutti i dolci. Se tu guardi anche le saladas, hanno il dolce del miele, il salato comunque del formaggio che c'è dentro. Da qualsiasi parte trovi sempre il dolce salato, se no non apprezzi uno e né tantomeno l'altro. È importante che non siano equilibrati, ci deve essere sempre un disequilibrio da una parte o dall'altra. Quello è vero, anche certi biscotti sono dolci sì, ma hanno un fondo di salato, di salatino. D'altronde c'è anche scritto sugli ingredienti. A te il biscotto ti piace, di la verità. Caspita, se mi piace il biscotto. A me piace bagnarlo. anche quello. Ieri dove eri, Marco Condors? Boh, non lo so nemmeno io, a casa. Non sono uscito. Sono uscito prima e poi a casa. Che festa c'era ieri? Ieri c'era la movida, c'era la festa della birra in via Roma, cioè da Piazza Italia fino a su al Museo Sanna c'erano tutte le, diciamo, i chioschi di birra, minchia, ne avranno versato ai tulitri. Ah no, vabbè, quello ero in macchina, l'ho visto, ho visto che c'era l'erogatore alla spina in un bar di via Roma. So che a me francamente non piacciono queste feste dove si beve solo, si beve, cioè i sassalesi sono così, al bar a bere al bar, ecco, quella è tutta la cultura sassalese, la beuzia, capito? Basta che uno si ubriachi e sono tutti contenti. Ma quella non è la cultura, quella è la cottura, ci vuole, no? Anzi, l'avrei chiamata questa anticultura sassarese, perché il culturale sassarese non c'è, non è che ci sia molto, ma che si beva al latte dolce, che si beva ai giardini, che c'era un'altra festa anche lì. Questo l'ho notato anch'io, nel senso che abbinare le manifestazioni ludiche e concerti a questo di mettere sempre i chioschi della birra, certamente non incentiva un giovane ad avere una vita sana, perché li vedi proprio, se ne crepano 3 o 4 e già stiamo parlando di un litro dentro. È sicuramente una campagna negativa per chi contro l'alcol, soprattutto nella guida in stato d'ebbrezza, perché poi quando te ne vai dal centro di Sassari la maggior parte dovevano andarsene in macchina, quindi anch'io da questo punto di vista sono d'accordo. E che hanno scoperto che si guadagna un bel soldi e quindi stanno optando tutti per organizzare i concerti con questi chioschi che si fanno centinaia di migliaia di euro. Lo so. Poi, sai cos'è, io come dico sempre, io bevo quando ho sete, io vedo gente seduta ai tavoli, una birra, birrone da tipo Oktoberfest, poi un'altra birra, cioè non è possibile che una persona abbia così tanta sete, a meno che non abbia il diabete, non lo so, roba del genere. No, se hai il diabete, qua voglio essere corretto, secondo quante birre ti fai, considerando il contenuto zuccherino della birra, te ne fai 2 e sei già in crisi. Ah vabbè, quella del diabete era un'altra, mi pare che non so chi ha il diabete abbia più 7, c'è una malattia particolare che ti induce a bere molto, ma non credo che questi siano tutti diabetici, o almeno tutti con questa malattia che bevono un boccale dietro l'altro, no? Ma non è che bevono alcol i diabetici, bevono acqua. Oh, e non scende sto smitter, boh. Perché gli hai messo il... come si dice? Guarda che c'è un pulsante che devi schiacciare in basso a sinistra e serve per... si chiama fast o low, guarda che ci dovrebbe essere iscritto. Ah, già fatto, tanto. Allora, ti dico cosa fa. Vuoi parlate, questo scende lento, anche se se lo metto veloce, scende la lancetta lenta e anche la ricezione non si apre, non si apre, si apre piano piano piano piano. Mi aspetta che mollo la portante. E vabbè, adesso me l'ha fatta apposta, è sceso. Si blocca questo AGC, capito? Si blocca la lancetta e non c'è la ricezione, perché se la lancetta non scende la ricezione non si apre. Prova a togliere, non è che c'hai per caso lo squelcio, anche se in AM non lo squelcia il K. Togli quello lì, togli l'attenuatore, togli i filtri, togli tutto quanto, metti a zero. Allora, filtro è già tolto. Lo squelch prova a toglierlo, che non c'entra nulla, ma non si sa mai. E non c'è attenuatore, vediamo. Ecco, adesso si è bloccata a 3,5. E qua è 0 adesso. 2, scende sempre di più, piano piano. Vabbè, magari con questi segnaloni mi state sovraccaricando la radio. Mettetevi un watt che va benissimo in città. Questo watt, mettetevi un mezzo watt, si parla lo stesso. Gaba gaba, gaba gaba. Gianni. A proposito. Sì. Oh, per chi non lo sapesse, in Giappone usano e usavano degli apparecchi. Mezzo watt in 27, no, mezzo watt devono avere rigorosamente l'antenna intercorporata e sono sia portatili che veicolari, tra virgolette, sono da tavolo, hanno un'antenna fissa e mezzo watt, 8 canali con una canalizzazione peraltro tutta strana. Gli apparecchi sono tutti Sony, belli da vedere, veramente belli, Sony e anche un'altra marca, tipo una grossa giapponese, tipo National Panasonic. Ma sono PMR quelli. Ma sono sui 27 MHz, Anto. I giapponesi possono usare di norma, regola solo quelli, poi vabbè si mettono anche 400 canali, però omologati sono quelli lì. Guarda, sono belli da vedere, veramente. Chi è che c'era sotto, che ho sentito che è intervenuto? Va bene, dai, vi lascio che vado un attimino a far finta di degustare qualcosa. È stato un vero piacere, e la balla che sto dicendo spero vi passi come verità. È stato un piacere sentire il Gianni Doppio Rumo, ormai più vecchio di un anno, ma sta per passare un altro giorno e quindi non andiamo al prossimo 55esimo, 50-50 compleanno. È stato un piacere capire che perché Luca ha problemi di occhi, perché sta sempre attaccato al computer guardando siti zozzi. È stato un piacere ascoltare il Marcolino Condor, questa è la balla più grossa che possa dire, e rilancio il mic un attimino all'unica persona seria della frequenza, che è Gianni Capri 2. Riprenditela per i saluti, ciao ciao. Che tu non vedi più lontano del tuo naso, e quindi vedi un bel lontano, arriva un naso e pare una tromba. Sì, ma vedo la tappa Luca però. Sì, in culo. E ti ho uno schiaffo, cazzo, ti sta col collo tra il sacco. Oh, occhio. La verità, ne avresti coraggio. Non capi niente, guarda, se comincia non capi niente. Invece non ti faccio niente, da lontano mi stai arrivando. Tu, cazzo. Fari una pugnetta. No, ti bacio in bocca, come è già successo. Ma è meglio che un calippo, no, è meglio ancora di più. No, stavo scrivendo con una tipo, oddio, è grande, mi sta chiedendo delle informazioni, no? E io in base a quello che mi scrive gli rispondo, ma mi sta ascoltando. Sta ascoltando? Come si chiama? Giusa, c'è il Nick 10 lire. Sta ascoltando, nel senso che ci sta ascoltando adesso? No, non può ascoltarlo, io scrivo in una chat, no? Ma è anche, diciamo, volendo posso prendere il microfono e parlare, vi sente? Però non lo faccio, ma sta scherzando. Scusa, ma perché non vai? Luca, paura che Antonio dica qualche sconcezza. No, negativo, adesso a parte gli scherzi, perché non vai tu? Ma t'ammazzi, ciao, fate da bravi, Luca, noi ci sentiamo domani mattina, ciao. Ciao Antonio, buonanotte, avanti Luca. No, Luca ha già salutato, avanti già. Ciao Antonio, ci sentiamo, no. Avanti Marco Condor, ho cambiato apparato, si sente cambi? batteria, bella forte, bello squillante. Perché l'altro che apparato era? Midland. Ah, Midland era, esce bene anche quello. Ma il 48 multi? Plus multi. 48 plus. Sì, sì, sì, volevo dire plus, c'è, poi c'è il plus multi anche. Sì, era lui, con l'MVP5 modificato da me. Via. Che palle questa AGC, guarda, una bella rottura. AGC. AGC, Automatic Gain Control. Scende lentamente, troppo lentamente. Cosa è toccato? Niente, è venuto una decina di giorni fa questo difetto. Addirittura l'ho messo veloce e scende piano. Quando ce l'avevo io non faceva mai il difetto del genere. Sì, scende molto piano. Se lo metti lento non ne parliamo, non scende mai. Poi si sblocca di colpo, boh. E vabbè, può capitare, no? Può capitare, boh. Non lo so che cosa, quando l'hai regolato, cosa è toccato, se è toccato qualche tasto, qualche cosa, boh. Io te l'ho detto, lascialo come che va bene. Ehi, no, ma non c'è niente da toccare qua, questo ormai è semplice, capito il funzionamento. Oh, mi sto bloccando, aspetta che mollo la portante. Quanti watt sto uscendo? 20 watt, sì, 20. Oh raga, io vi saluto là che sto andando a vedere un po' di televisione. Alle prossimine ci sentiamo, sentiamo. Ciao, ciao. Ok, alle prossime. Ciao Gianni, sentiamo. Ciao, buonanotte. Ciao Luca, ciao Marco, ci sentiamo di nuovo. Cappa, saluto anche Capri2, se l'ascolto. Gianni, Capri2, Luca, tutti quanti. Anch'io vado a vedermi un po' di televisione. Ciao, buonanotte. Mi prendono. Di più, di più.